America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. And I'm confident that it is well within my authority. Barack Obama, il presidente americano, ha parlato ieri dopo il suo primo incontro con il nuovo segretario al Pentagono, Ash Carter. Carter ha giurato ieri il 25esimo segretario alla difesa degli Stati Uniti, il quarto della presidenza Obama, pensate ne ha cambiati già quattro, ha sostituito Chuck Hagel che diede le dimissioni alla fine del 2014. Carter è un segretario particolare, non ha mai fatto il servizio militare, a 60 anni, si è laureato a Yale, un pragmatico, un manager. Però conosce a fondo il Pentagono perché aveva lavorato come numero due alla difesa sotto la guida di Leon Panetta. E qual è il benvenuto che gli ha dato Barack Obama? Obama dice: abbiamo parlato delle sfide sul fronte della sicurezza, dobbiamo essere certi di smantellare l'ISIS, non solo stabilizzando la situazione in Iraq, ma affrontando la questione dei combattenti stranieri, contrattaccando la narrativa dell'estremismo violento che si è diffusa a velocità turbo su internet. Abbiamo parlato dell'Ucraina, dove per inciso la situazione continua a essere instabile, soprattutto in una piccola parte della regione, e come potremo mantenere la forza militare più forte e più efficace del mondo. Ecco, questa la retorica di Obama, una retorica americana che conosciamo bene. C'è un limite però, secondo me, in quel che dice il presidente, e direi un limite per fare un gioco di parole in questa sua narrativa. Perché? Perché Obama usa un linguaggio che suona un po' vecchio, quando ormai l'ISIS invece nella sua retorica folle afferma di essere già alle porte di Roma, quando uccide cristiani copti egiziani, quando controlla i due terzi del territorio siriano e iracheno, oggi insomma con i lavori sull'antiterrorismo che continuano a Washington. Credo che dobbiamo riflettere su questioni più radicali, più profonde, perché è vero che se in Danimarca il giovane terrorista era forse prima un emarginato che un fanatico religioso, e questi lavori sull'antiterrorismo che sono cominciati ieri e continueranno domani, tra l'altro ci sarà il nostro ministro degli interni Alfano, cercano di correggere anche questo problema degli emarginati. Però insomma il dibattito, direi, su questo tema deve essere secondo me leggermente più profondo, più articolato. Ieri per esempio ho visto un intervento secondo me molto interessante sul New York Times di Roger Cohen, che è uno dei columnist del quotidiano, che analizza proprio la questione di fondo su cui si dovrebbe dibattere anche a Washington, e cioè come uscirne, qual è la radice? I do hold Muslims responsible to this degree. I don't think that we can solve this problem, Don. Ecco, avete sentito la voce di Roger Cohen che interviene really proprio su questioni really antiterroristiche, e ieri ha scritto: Theo van Gogh, il regista olandese, era stato ucciso da estremisti islamici per i suoi film, che ironizzavano sul modo in cui i musulmani trattano le donne. C'è chi definisce l'estremismo islamico, quello dei jihadisti, ad esempio Obama lo definisce così, dice Cohen, come una ideologia depravata, ma se ci pensiamo la guerra dell'Islam è contro la libertà di espressione, la libertà di coscienza, la libertà di stampa, dell'ironia persino blasfema che noi in Occidente a volte usiamo, di quella sessuale, in sostanza di quelle caratteristiche della democrazia che i fondatori del califfato vedono come i simboli della decadenza occidentale, la battaglia in sostanza e soprattutto contro i nostri valori. E a questo punto ci si chiede: di chi è la colpa di questa estremizzazione? E dunque Cohen identifica due scuole di pensiero, due conclusioni. La prima, quella che dice che la colpa è dell'Occidente. È l'Occidente che appoggia Israele, che è una democrazia considerata come la più recente incarnazione dell'imperialismo nel Levante. L'Occidente che ha fatto guerre in Iraq, ad esempio, che si comporta in modo brutale a Guantanamo, Abu Ghraib, che uccide civili innocenti con i suoi droni. Abbiamo visto gli attacchi dei droni per esempio in Pakistan, che guidato dall'ipocrisia del petrolio, con un alleato chiave come l'Arabia Saudita, che finanzia gli stessi jihadisti. La seconda scuola di pensiero, dice sempre Cohen, afferma che la colpa invece è del fallimento del mondo arabo, con le sue società chiuse, con dittatori che combattono l'Islam politico, con le repressioni, con le istituzioni deboli, con questo settarismo che preclude la pratica di una democrazia a larga partecipazione, un mondo arabo con le sue teorie cospiratrici, con la sua incapacità di offrire lavoro, speranza ai giovani, e tutti i fallimenti questi che rendono attraente lo Stato islamico, il califfato. Ecco, Roger, che conosco, pensate, per caso eravamo seduti vicini alla prima storica inaugurazione di Obama, seduti davanti al Campidoglio, trova la seconda interpretazione più persuasiva. Qualcuno potrà dire che Cohen, per per il nome che porta, di radice ebraica, e forse può essere poco credibile, però devo dire, ho letto molte delle sue cose, l'ho sempre trovato molto imparziale, anzi addirittura critico di Israele e delle occupazioni, del dialogo mancato con la leadership palestinese, e osteggiato proprio per questo dalle comunità ebraiche americane. Dunque per me è credibile e condivido la sua conclusione, per questo vi ho citato questa sua interpretazione. La risposta per il progresso, per l'emancipazione democratica, per un futuro di speranza, deve venire dall'interno del mondo arabo, non può essere paracadutata da una guerra dall'Occidente. Abbiamo visto che poi queste guerre portano davvero a poco, e non può venire anche da un piano Marshall che qualcuno chiede, da un piano economico paracadutato anche quello, dove? Per cui mi auguro che anche di questo si discuta in questi giorni a Washington, e non soltanto di una retorica che alla fine porta a poco. I disagree with the Texas judge's ruling, and the Justice Department will appeal. Questo è sempre Obama che parla ieri dopo l'incontro con il nuovo segretario al Pentagono, e però viene deviato su questioni interne, per esempio sull'immigrazione, e Obama dice: non sono d'accordo col giudice del Texas che ha paralizzato, ha bloccato ieri l'ordine esecutivo sull'immigrazione del presidente, un ordine esecutivo che avrebbe potuto dare, come dire, sollievo a questi 11 milioni di immigrati illegali americani. Barack Obama è stato costretto a fermare la sua operazione, che poteva cominciare già da oggi, e ritiene che la decisione del giudice texano sia illegale, e dunque alla fine finirà per prevalere la sua mozione. Un'esplosione terribile, un incendio visibile a chilometri di distanza, due cittadine evacuate, una casa distrutta, due contee in stato di emergenza. Questo il risultato, incluso un possibile danno ambientale. Questo è il risultato, vi dicevo, dell'esplosione nella notte di un treno merci che trasportava petrolio e che ha deragliato nel West Virginia. Beh, perché vi parlo di questo? Perché un altro fattore interno di cui Obama si è dovuto occupare, nel senso che il presidente vorrebbe costruire questo oleodotto che può portare il petrolio dal Canada fino al Golfo del Messico, i repubblicani si oppongono. Questo incidente terribile è avvenuto a Boomer, a 50 km da Charleston, la capitale del West Virginia, durante una tempesta di neve. Il treno era composto, pensate, da 109 vagoni, di cui 107 adibiti al trasporto di petrolio, proprio perché non ci sono oleodotti, oleodotti che sarebbero sicuramente più sicuri anche dal punto di vista ambientale. Beh, qual è una conclusione? Beh, i due temi interni di cui vi ho parlato adesso, alla fine, ieri, hanno prevalso sul tema terrorismo. Le elezioni che arrivano in America sono soprattutto su temi interni, si vincono sulle questioni interne più che sulle questioni di politica estera. Forse fino a quando non si capirà che la minaccia del terrorismo estremista rischia di sconquassare tutto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, questa trasmissione fra terrorismo, esplosioni di treni, come dire, non ha sprezzato ottimismo, quindi cambiamo timbro, perché poi la vita avanti. Ieri notte qui a New York al Madison Square Garden si è chiuso il Westminster Kennel Club Dog Show, il concorso annuale per il cane più bello d'America, grande tradizione americana, grande rifugio dalle notizie difficili. Siamo arrivati alla 139esima edizione, quasi 190 cani in concorso. Ha vinto Miss P, un beagle, il cane di Charlie Brown. E dunque, in onore delle tradizioni, dei cani di tutto il mondo e di Miss P, vi propongo un balzo all'indietro verso tempi più ingenui e più facili. How much is the doggy in the window? Di Patti Page, un must ancora oggi per l'innocente infanzia americana. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy's for sale. I must take a trip to California and leave my poor sweetheart alone. If he has a dog, he won't be lonesome, and the doggy will have a good home. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.